Buonasera a tutti, vi rubo due minuti anch'io giusto per darvi un'idea di come è nata questa iniziativa, perché sarebbe da Livorno, sono livornese anch'io tra l'altro, da Livorno siamo partiti per fare questa iniziativa qui questa sera. Il Centro Filippo Buonarroti della Toscana, per chi non ci conosce, ora non vi rubo tempo a spiegarvi cos'è, ho lasciato dei plan sulle sedie dove è ben scritto cosa facciamo, le mostre che portiamo in giro per la Toscana e c'è un po' di esempi della nostra attività. In realtà il feeling, il concetto di documentazione di Pistoia nasce 7 anni fa, nel 2017, perché è la prima iniziativa in assoluto che ha fatto il Centro Filippo Buonarroti, l'ha fatta qui, in questi locali qui, al piano di sopra, con Lucia, dove facevamo una mostra sulla guerra civile spagnola, 10 giorni davanti, una cosa del genere, con dei dibattiti e tutto quanto. Per cui non solo la prima, ma anche la seconda iniziativa del Centro Filippo Buonarroti si tenne qui, nella sala giù, quella per l'anniversario della rivoluzione d'ottobre. Di tempo ne è passato, per l'appunto sono passati 7 anni nel frattempo. Il Centro Filippo Buonarroti ha tenuto in questi sette anni circa 90 conferenze in giro per tutte le 10 località diverse, 10 città diverse in Toscana. Abbiamo portato a giro tutte le nostre mostre, abbiamo 5 mostre diverse su argomenti diversi, e questa attività ci ha dato la possibilità, al di là delle persone che hanno materialmente partecipato poi ai momenti di dibattito, di confronto, e alle centinaia, a migliaia che hanno visitato poi le mostre, ci ha dato la possibilità di stringere rapporti con decine e decine di associazioni, enti vari in Toscana. Da qui nasce, ad esempio, cioè quella dell'iniziativa di questa sera è ad esempio una sinergia di questo tipo, perché la professoressa Bastogi fa parte di un coro, fra le tante cose fa parte anche di un coro a Livorno, con il quale abbiamo fatto un'iniziativa, più di un'iniziativa di la verità, abbiamo fatto delle iniziative e all'inizio quest'estate, mi sembra, Laura, no? Sì. Uno scritto su Gianna Manzini, appunto dicendo se poteva interessarci, e di lì è ovvio che, avendo questo il contatto già con il Centro di Documentazione, è stato automatico il chiamare il Centro di Documentazione e dire: guardate, noi a Livorno non è che ci facciamo più di tanto, però per voi potrebbe essere una cosa interessante. Ecco, questo fare iniziative di questo tipo, poi per noi c'è stata la motivazione in più, diciamo, è la motivazione di Giuseppe Manzini, cioè della figura del padre, figura di un internazionalista, che per noi è importante che in questi tempi abbastanza cupi, diciamo, fra guerre e quant'altro che ci sono in giro, ecco, trovare una qualsiasi occasione, anche da un punto di vista letterario, come sarà per l'appunto stasera, di parlare di una figura importante, importante la figlia, ma importante il padre, per il movimento operaio, per noi è stata un'ottima occasione. Ecco, per cui quello che diciamo è, nel fare queste iniziative, per l'appunto, c'è la possibilità di mettere insieme, ovviamente con oltre 90 iniziative in giro per la Toscana, abbiamo avuto relatori di tutti i tipi, no? Dai grandi all'ultimo che è venuto Barbogliani a Firenze a fare una conferenza, ma dal grande professore universitario al lavoratore di fabbrica che è venuto a parlare di questioni sindacali magari all'interno del posto di lavoro. Per cui ci dà questa possibilità, per l'appunto, di mettere insieme persone e di mettere insieme associazioni diverse, che appunto, come dicevo prima, di questi tempi può essere soltanto bene. Per cui è un piacere stasera avere la professoressa Bastogi a tenere questa conferenza. Grazie.